Perlomeno io ero felice che, prima di morire, mi avesse scritto quella lettera e soprattutto inviato l'ultimo telegramma da cui risultava che, se fosse vissuta, sarebbe ritornata. Mi sembrava che fosse non soltanto più dolce, ma anche più bello. Che senza quel telegramma l'avvenimento sarebbe stato incompleto, avrebbe avuto meno figura d'arte e di destino. In realtà, non ne avrebbe avuto di meno se fosse stato diverso. Perché ogni avvenimento è come uno stampo di forma particolare e, comunque sia, impone alla serie dei fatti che è venuto a interrompere e che sembra concludere un disegno che ci appare come il solo possibile, perché non conosciamo quello che avrebbe potuto sostituirlo. Perché non mi aveva detto «ho questi gusti»? Avrei ceduto, le avrei consentito di soddisfarli e adesso potrei ancora baciarla. Che tristezza dovermi ricordare che mi aveva mentito 3 giorni prima di lasciarmi, giurandomi di non aver mai avuto con l'amica di Mademoiselle Vonteuil i rapporti che nel momento stesso in cui giurava il suo rossore aveva confessato. Povera piccina. Aveva avuto almeno l'onestà di non voler giurare che il piacere di rivedere Mademoiselle Vonteuil e la sua amica non aveva alcun rapporto col suo desiderio, quel giorno, di andare dai Verdurin. Perché non aveva portato sino in fondo la sua confessione? Del resto, era forse un po' colpa mia se, nonostante tutte le mie preghiere che andavano a infrangersi contro il suo diniego, non aveva mai voluto dirmi «ho questi gusti». Era un po' colpa mia. Forse perché a Balbec, il giorno dopo la visita di Madame de Cambremer, avevo avuto con Albertine la mia prima spiegazione. E lontano com'ero dal credere che fra lei e André potesse esserci comunque qualcosa di diverso da un'amicizia troppo appassionata, avevo espresso con eccessiva violenza il mio disgusto per costumi di quel genere. Li avevo condannati in modo eccessivamente categorico. Non riuscivo a ricordare se Albertine fosse arrossita quando avevo proclamato il mio orrore per la cosa. Non riuscivo a ricordarmene perché il più delle volte è solo dopo molto tempo che noi vorremmo conoscere l'atteggiamento tenuto da una persona in un momento in cui non vi abbiamo prestato la minima attenzione, mentre più tardi, quando ripensiamo a quella conversazione, ricordarlo risolverebbe una difficoltà tormentosa. Ma nella nostra memoria non ce n'è traccia. C'è una lacuna. E molto spesso non abbiamo prestato sufficiente attenzione sul momento, nemmeno alle cose che già allora potevano apparirci importanti. Non abbiamo sentito bene una frase, non abbiamo notato un gesto, oppure li abbiamo dimenticati. E quando più tardi, avidi di scoprire una verità, risaliamo di deduzione in deduzione, sfogliando la nostra memoria come una raccolta di testimonianze, se arriviamo a quella frase, a quel gesto impossibile da ricordare, ricominciamo 20 volte lo stesso percorso, ma invano. Non andiamo d'un passo più in là. Era arrossita? Non so se fosse arrossita. Però non aveva potuto non sentire. E più tardi il ricordo di quelle parole l'aveva bloccata quando era forse sul punto di confessarsi a me. E adesso non era più in nessun luogo. Avrei potuto percorrere la terra da un polo all'altro senza incontrarla. La realtà, richiusasi sopra di lei, era ridiventata liscia. Aveva cancellato anche l'ultima traccia dell'essere che era colato a picco. Albertine non era più che un nome. Come quella Madame de Charlus, di cui chi l'aveva conosciuta diceva con indifferenza, era deliziosa. Ma io non riuscivo a concepire per più di un istante l'esistenza di quella realtà di cui Albertine non aveva coscienza, perché la mia amica esisteva troppo dentro di me, dove ogni sentimento, ogni pensiero si riferiva alla sua vita. Forse se l'avesse saputo, l'avrebbe commossa a vedere che il suo amico non la dimenticava ora che la sua vita era finita, e sarebbe stata sensibile a cose che prima l'avrebbero lasciata indifferente. Ma come ci si vorrebbe astenere dalle infedeltà, anche dalle più segrete, per paura che non se ne astenga la donna amata, mi spaventava il pensiero che, se i morti vivono da qualche parte, la nonna conoscesse il mio oblio quanto Albertini il mio ricordo. E tutto sommato, anche riguardo ad una stessa persona morta, siamo sicuri che la gioia di scoprire che sa certe cose compenserebbe lo spavento di pensare che le sa tutte, e per sanguinoso che sia il sacrificio, non rinunceremmo qualche volta a conservarli come amici dopo la loro morte per paura di averli anche come giudici. Infinite erano le mie curiosità gelose di quanto Albertina avesse potuto fare. Pagai non so quante donne che non mi rivelarono niente. Se erano tanto vivaci queste curiosità è perché un essere non muore subito per noi, rimane immerso in una specie d'aura di vita che non ha nulla della vera immortalità, ma gli consente di continuare ad occupare i nostri pensieri come quando era vivo. È come se fosse in viaggio. Si tratta di una sopravvivenza molto pagana. Inversamente, quando si smette d'amare, le curiosità destate da un essere muoiono prima che lui sia morto. Così, non avrei fatto un solo passo per sapere con chi Gilberte stesse passeggiando una certa sera nei Champs-Élysées, e mi rendevo ben conto che queste curiosità erano del tutto analoghe, prive di valore intrinseco, senza possibilità di durare. Ma continuavo a sacrificare ogni cosa alla crudele soddisfazione di queste curiosità effimere, pur sapendo in anticipo che la separazione forzata da Albertina dovuta alla sua morte avrebbe finito col condurmi alla stessa indifferenza a cui mi aveva condotto la separazione volontaria da Gilbert. Ed è proprio questo che mi fece mandare Aimé a Balbec, poiché intuivo che in loco sarebbe venuto a sapere una quantità di cose. Se Albertina avesse potuto immaginare cosa l'aspettava, sarebbe rimasta con me. Ma era come dire che, se si fosse vista morta, avrebbe preferito rimanere in vita accanto a me. Era una supposizione assurda a causa della stessa contraddizione che implicava. Ma non era inoffensiva, giacché immaginando quanto Albertine si avesse potuto sapere, si avesse potuto retrospettivamente capire, sarebbe stata felice di tornare con me, io la vedevo in quell'atto. Volevo baciarla e questo, ahimè, era impossibile, non sarebbe tornata mai, era morta. La mia immaginazione la cercava nel cielo di quelle sere in cui ancora lo guardavamo insieme. Al di là del chiaro di luna che aveva amato, tentavo di alzare fino a lei la mia tenerezza perché la consolasse di non essere più viva. E questo amore per un essere diventato così lontano era come una religione. I miei pensieri salivano verso di lei come preghiere. Il desiderio ha molta forza. Genera la convinzione. Avevo creduto che Albertine non se ne sarebbe andata perché lo desideravo. Perché lo desideravo, credetti che non fosse morta. Mi misi a leggere dei libri sullo spiritismo, cominciai a credere possibile l'immortalità dell'anima, ma non me ne accontentavo. Bisognava che dopo la mia morte la ritrovassi con il suo corpo, come se l'eternità fosse simile alla vita. Cosa dico alla vita? Ero ancora più esigente. Avrei voluto che la morte non mi privasse mai più dei piaceri che pure non è la sola a toglierci. Senza di lei, infatti, essi avrebbero finito per ottundersi. Già avevano cominciato a farlo, sotto l'azione della vecchia abitudine, delle nuove curiosità. E poi, nella vita, Albertine sarebbe cambiata anche fisicamente, a poco, e giorno per giorno io mi sarei adattato a tale cambiamento. Ma il mio ricordo, non evocando di lei che dei momenti, esigeva di rivederla quale ormai, se fosse rimasta in vita, già non sarebbe più stata. Ciò che voleva era un miracolo che soddisfacesse ai limiti naturali e arbitrari della memoria, la quale non può uscire dal passato. Eppure, con l'ingenuità dei teologi antichi, io me l'immaginavo quella creatura vivente, disposta a concedermi non già le spiegazioni che avrebbe potuto darmi, ma, estrema contraddizione, quelle che m'aveva sempre rifiutato in vita. E così la sua morte, essendo una specie di sogno, il mio amore le sarebbe parso una felicità insperata. Dalla morte non prendevo che la comodità e l'ottimismo di una conclusione che semplifica, che sistema tutto. A volte immaginavo che non così lontano, non in un altro mondo ci saremmo ricongiunti, Così come in altri tempi, quando la mia conoscenza di Gilbert si limitava ai giochi che facevamo insieme ai Champs-Élysées, la sera a casa mi figuravo che avrei ricevuto una sua lettera con una confessione d'amore e che lei stessa sarebbe venuta da me. Un'analoga forza di desiderio, tanto incurante delle leggi fisiche che vi si opponevano, quanto lo era stata allora per Gilbert, quando in fin dei conti non s'era sbagliata, giacché aveva avuto l'ultima parola, mi faceva adesso pensare che avrei ricevuto un biglietto di Albertine, dal quale sarei stato informato che aveva avuto sì un incidente di cavallo, ma che per ragioni romanzesche, e come è pur successo qualche volta con personaggi creduti a lungo morti, non aveva voluto che io sapessi che era guarita e adesso, pentita, chiedeva di venire a vivere per sempre con me. E rendendomi perfettamente conto di cosa possano essere certe dolci follie di persone che per il resto sembrano ragionevoli, sentivo coesistere in me la certezza che era morta e la speranza incessante di vederla comparire. Non avevo ancora ricevuto notizie di Aimé, che peraltro doveva già essere a Balbec. La mia inchiesta, certo, verteva su un punto secondario e scelto del tutto arbitrariamente. Se la vita di Albertine era stata davvero colpevole, doveva aver contenuto molte cose ben più importanti con cui il caso non m'aveva messo in contatto, come era avvenuto grazie al rossore di Albertine per quella conversazione sull'accappatoio. Ma per me, proprio perché non le vedevo, quelle cose non esistevano. Era però in modo del tutto arbitrario che m'ero fissato su quella giornata e, a distanza di anni, cercavo di ricostruirla. Se ad Albertine piacevano le donne, c'erano nella sua vita migliaia d'altre giornate che non sapevo come avesse passate e che sarebbe stato per me altrettanto interessante conoscere. Avrei potuto mandare Aimé a tanti altri indirizzi di Balbec, in tante altre città diverse da Balbec. Ma quelle giornate, poiché non sapevo come le avesse passate, non si offrivano alla mia immaginazione, non esistevano in essa. Per me le cose, le persone, cominciavano ad esistere solo quando assumevano nella mia immaginazione un'esistenza individuale. Pur essendocene migliaia d'altre simili, esse diventavano per me rappresentative del resto. Se, in fatto di sospetti sul conto di Albertine, desideravo da molto tempo sapere come fosse andata la faccenda della doccia, allo stesso modo, in fatto di donne desiderabili, pur sapendo che c'era una quantità di ragazze e di cameriere che potevano valere quanto loro e di cui il caso avrebbe potuto ugualmente far sì che io sentissi parlare, quelle che avrei voluto conoscere, perché di quelle m'aveva parlato Saint-Loup e quelle esistevano individualmente per me, erano la fanciulla che frequentava le case d'appuntamenti e la cameriera di Madame Putbus. Le difficoltà che la mia salute, la mia indecisione, il mio procrastinare, come diceva Saint-Loup, frapponevano all'attuazione di qualsiasi cosa, m'avevano fatto rinviare di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno il chiarimento di certi sospetti, come la realizzazione di certi desideri. Ma li serbavo nella memoria, ripromettendomi di non dimenticare, di scoprirne la realtà, perché essi soli mi ossessionavano, dato che ai miei occhi gli altri non avevano forma, non esistevano, e anche perché lo stesso caso che li aveva scelti in mezzo alla realtà mi garantiva che tramite loro sarei entrato appunto in contatto con un poco della realtà, della vita vera e agognata. E poi un solo piccolo fatto, se è ben scelto. Non basta forse allo sperimentatore per stabilire una legge generale capace di far conoscere la verità su migliaia di fatti analoghi? Sebbene Albertine non esistesse nella mia memoria, come m'era via via apparsa nel corso della vita, che come una serie di frazioni di tempo, il mio pensiero, ristabilendovi l'unità, ne rifaceva un essere, ed era su questo essere che io volevo formulare un giudizio generale, sapere se mi aveva mentito, se le piacevano le donne, se era per frequentarle liberamente che m'aveva lasciato. Le parole dell'inserviente delle docce avrebbero potuto metter fine per sempre ai miei dubbi sui costumi di Albertine.